di occhiaie, mentre le notti bianche o nere sfilavano dalle tasche come te, sfilavano dalle tasche come te. Ed eri al centro del mondo, scattavi polaroid nel fango, che i licenziamenti a distanza ci hanno fatto unire, ci hanno fatto unire, ci hanno fatto unire. Serie B, mentre fuori piove martedì, piangere sui film di serie B, piangere sui film di serie B, mentre fuori piove martedì, piangere sui film di serie B. Pagavo per baciarti male i libri dell'orrore, ai mostri sotto il letto, vedi se ci trovi un cuore. Pagavo per baciarti male,